Oh, vuoi comprare le mie scarpe? Sono buone per accendere il fuoco. Dai, quanto mi dai per il berretto? Oh, bell'acquisto davvero, un berretto di midolla di pane. C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo. Pinocchio era sulle spine. Stava lì, lì, lì, lì per fare un'ultima offerta. Ma non aveva il coraggio. Esitava, tentennava, pativa. Alla fine disse: vuoi darmi 4 soldi di questo abbecedario nuovo? Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi, gli rispose il suo piccolo interlocutore che aveva più giudizio di lui. Per 4 soldi l'abbecedario lo prendo io, gridò un rivenditore di panni usati che s'era trovato presente alla conversazione. Ed il libro fu venduto, lì, su 2 piedi. E pensare che quel povero uomo di Geppetto era rimasto a casa, a tremare dal freddo in maniche di camicia, per comprare l'abbecedario al figliuolo.